Focus Economia di Sebastiano Barisoni. A 7:11 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente soprattutto il governo, il decreto del governo, che cosa punta e dove punta a intervenire. La cifra complessiva è di 25 miliardi, non da usare tutti subito ma su emergenza. Nel momento in cui stiamo però attendendo di capire dal governo se, dopo la lettera che ha inviato la Regione Lombardia, per la Regione Lombardia e forse anche per il Veneto, si arriverà a un'ulteriore stretta, e cioè la Regione Lombardia e la Regione Veneto hanno chiesto soprattutto di arrivare anche alla chiusura di tutti i negozi tranne quelli di prima necessità, quindi i negozi generi alimentari, anche le edicole, perché giustamente la gente ha bisogno anche di essere informata. Lo dico perché c'è però un'incongruenza di fondo nel, guardate, non è l'area, non è il momento per fare polemiche con il governo o con chi sta affrontando una situazione eccezionale, però è quello che rilevavamo anche ieri, l'attuale DPCM, e poi lo faremo riascoltare così evitiamo dubbi, quello che si può fare e quello che non si può fare, prevede appunto solo tre casi, necessità, salute e lavoro indifferibile, per uscire di casa. E all'interno della necessità e salute ci può essere anche la necessità di carattere sportivo, purché uno mantenga la distanza. Ora non si capisce come fanno i negozi non di necessità, il negozio di scarpe, la profumeria, a restare aperti se io non posso uscire, o meglio, se dovessi dire in autocertificazione sto andando a comprarmi il profumo, voglio vedere se passa come necessità. Se sto dicendo sto andando a comprarmi un paio di scarpe, è molto difficile provare la necessità. Quindi quello che lamentano i negozianti è l'incongruenza tra decreto che ti impedisce di uscire se non per quei motivi e invece il fatto che i negozi restano aperti, con un aggravante, e ne parleremo, che in questo caso i negozi hanno delle spese, le spese per il personale che viene, l'elettricità, la bolletta, hanno paura che i loro dipendenti, come ci ricordavano ieri, vengano messi a rischio. E attenzione, se non arriva un decreto di chiusura, quando anche chiudono più o meno il 50% delle attività, si è autoimposta la chiusura, però è una scelta autonoma. Se invece vi fosse un decreto che ti obbliga a chiudere, diventerebbe anche più facile il ricorso agli strumenti straordinari, cioè dire ho dovuto chiudere per decreto, quindi posso aderire a tutto un insieme di cassa integrazione straordinaria e quant'altro. Sarebbe più snello, perché in questo momento tu hai alcuni che restano aperti, rimettendoci, altri che decidono di chiudere ma senza nessuna copertura. Se hai un paio di scarpe che si rompono, come fai? Guardate, non scherziamo, io capisco che uno sta a casa, anche voglia di scherzare. La scarpa che si rompe, se ce l'hai, sono cavoli tuoi, nel senso che se sei arrivato in questo periodo con un paio di scarpe rotte, non so, fatti una domanda e datti una risposta, come dice Marzullo, e non soprattutto scrivere a questo programma. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Sì, mi parlate molto delle imprese, ne parleremo, la Confindustria Lombarda ha chiesto che non si fermi l'attività delle imprese. C'è anche un tema di approvvigionamento di alcuni beni, nel senso che tu dovresti poi essere sicuro che la chiusura delle imprese non vada a toccare chi sta producendo componenti farmaceutiche, componenti sanitarie, anche pezzi che possono servire e lì bisogna stare molto attenti, perché come fai a sapere se quell'impresa o deve fare un'altra certificazione lei. Dunque, Questo è il punto sulle imprese. Altro tema è quello dei negozi. È ovvio che anche le imprese, il tema della regione Lombardia è, ma lì poi ci sono lavoratori che si incontrano. E l'altro tema è sui mezzi di trasporto. È chiaro che da questo punto di vista, no, sorrido perché uno mi ha scritto, ma se uno ha le scarpe rotte è una ragione in più per non uscire, ecco appunto, tagliamola così. È chiaro che il tema dei trasporti pubblici in questo momento è un tema, sono rimasti aperti anche perché se i lavoratori vanno al lavoro hanno bisogno dei mezzi di trasporto, no? Quindi da quello che ho capito l'orientamento dovrebbe essere soprattutto sui negozi, quindi esercizi commerciali a partire anche dai grandi centri commerciali, e lasciare aperti solo supermercati e probabilmente gli alimentari. Comunque di questo parleremo in apertura, e poi anche l'elemento psicologico di questa crisi, di questa crisi, di questo virus. Mi scrive un ascoltatore: io sono solo, posso con auto, sono anziano, andare a fare la spesa? Certo che può. Adesso la scheda è pronta, se ce l'abbiamo, un attimo che la vado a riprendere. Certo che può. La necessità è anche andare a fare la spesa, la necessità è, ripeto, è anche andare a fare esercizio fisico in luoghi aperti mantenendo la distanza, qui a cavallo tra necessità e salute. Ci mancherebbe, lei può prendere la macchina per andare a fare la spesa, poi deve mantenere la distanza di un metro di sicurezza, lo vediamo in tutti i supermercati. Allora 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, le mucche non smettono di fare il latte, la filiera del formaggio da Ticini, no, ma guardi che non si ferma la filiera dei generi alimentari, ci mancherebbe, anzi, i dati che abbiamo visto sono obiettivamente e ovviamente di un incremento della spesa, dei consumi della GDO, dato dalla settimana scorsa, avevamo fatto più 16% nella prima settimana dall'esplosione del coronavirus, quindi 23 di febbraio, e poi più 18%, vado a memoria, più 20, più 18%, perché con i ristoranti chiusi, i bar chiusi, chiaro che uno va a fare la spesa di più, mangia a casa, anche perché non puoi mangiare se non a pranzo in altro luogo, e quindi i dati che vediamo della grande distribuzione organizzata, mi immagino valgano anche per i negozi alimentari, sono di crescita, si fa più spesa, non meno spesa. Qualcuno mi scrive dalle banche: guardi che le banche sono aperte e noi continuiamo a ricevere clienti che arrivano anche per cose risibili. Ho capito. Però sai lì come fai? Perché se uno dice sto andando in banca, è una necessità perché devo versare un assegno, devo recuperare dei soldi, è una necessità. No? È come andare al banco, ma è una necessità. Sì. Posso andare a trovare mia moglie in ospedale? Sì, le visite a parenti malati e anche in caso di genitori separati, lo spostamento per andare a recuperare i figli sono tutte previste. Però guardate, come necessità può andare bene andare a trovare la fidanzata? Ancora. Non è. Mi dispiace per la fidanzata, ma che necessità è? Se non vogliamo scadere nel programma che poi segue questo... Che necessità la fidanzata o lei di andare a trovare la fidanzata? Si sente al telefono e basta, no? Ma del resto non è che uno nella vita non gli succeda mai di non stare una settimana distante dalla sua fidanzata, per carità. Perfino Romeo e Giulietta riuscivano a reggere poi con esiti fatali alcune cose. Però in generale, mi raccomando, l'indicazione è molto di buon senso. Più è possibile te ne stai a casa, o per non, viste le belle giornate di oggi, vai in un parco, fai l'esercizio fisico che devi fare e torni a casa. Non è adesso tanto complicata. Allora, le borse oggi tentano, ma oggi un po' meglio, più 0,83% Milano, Parigi più 0,20, Francoforte più 0,20, Londra meno 1,30. Sulle borse c'è attesa per la Banca Centrale Europea di domani, infatti oggi vanno bene soprattutto i bancari. Diasorin lavora nel settore, diciamo, e continua ad andare benissimo. Allora, Banco BPM più 8,26, Diasorin più 7,47, UBI più 6,60, Telecom più 5,5, Intesa più 4,80, Fineco pure, il 4,30 la guadagna Pirelli, il 3,60 Unicredit, il 2,80 il rialzo di Ferrari, il 2,60 di Nexi e di Terna, il 2,5 di Mediobanca, il 2% è il guadagno di Fiat Chrysler. Perde invece Amplifon meno 3, Moncler meno 2,90, Campari meno 2,30, Enel meno 2,20, Juventus meno 2,20, Tenaris meno 1,60, come A2A, Case New Holland, CNH e Leonardo. Atlante perde 1,5% e Steam Electronics 1,30%. Mi scrive un ascoltatore: qui a Minerbe, in provincia di Verona, il nostro sindaco ha vietato le passeggiate e le corse. No, il vostro sindaco non può, non ha autorità superiore al DPCM, eh no. Quindi spiegategli che c'è un DPCM, se lo vado a leggere, il comma D, il punto D prevede attività in luoghi, attività fisica in luoghi aperti, purché sia possibile mantenere la distanza di 1 metro. Mi scrivono anche molto molti che lavorano nelle palestre, personal trainer, operatori, che dicono da non è previsto nulla. Altri mi scrivono, ma insomma, idraulici ed elettricisti, l'importante è che trovino il materiale, si chiudono i ferramenta o il materiale elettrico, e ci sono un insieme di problemi su questo, è innegabile. È un po' come quello che dicevamo per la filiera delle imprese: come fai a discriminare se un'impresa ha una parte, diciamo, della sua attività che comprende la produzione di componentistica o di componenti che servono per motivi sanitari, per motivi anche farmaceutici? Perché dite che non sono in studio, non c'è la diretta su Facebook? Sì, è garantita la diretta su Facebook. Io sono in studio, la maggior parte della radio è chiaramente in versione smart working, chiaramente, e poi invece alcuni mantengono il presidio qui dentro, alcuni programmi conducono già da casa in versione smart, altri invece per tipo di programma conducono qui dallo studio con tutte le precauzioni del caso, i guanti, il cappuccio del microfono che è personalizzato e viene cambiato, sono anche elementi di igiene. No, mi fate notare che non c'è oggi la diretta su Facebook, adesso cerco di capire perché, scusatemi, anche noi avendo meno persone al lavoro oggettivamente non riusciamo a garantire tutto. Allora, la Boeing va malissimo a Wall Street, cancellati 46 ordini di aerei, chiaramente. La Casa Bianca accusa la Cina, si sono persi 2 mesi. Beh, su questo devo dire che da tutte le informazioni che riceviamo, le informazioni che sono cibe, non voglio fare polemica neanche con la Cina, però sto grandissimo casino l'ha creato anche una non democrazia che prima ha arrestato e impedito ai medici che lavoravano, che avevano scoperto il vaccino, di parlare. E si è tenuta buona la cosa. Guardate, non lo dico io, Xi Jinping in un documento di 3 settimane fa riconosceva implicitamente di essere al corrente della cosa dal 6 di gennaio, non da fine gennaio. E tra l'altro questo ha coinciso con il capodanno cinese e quindi con una marea di turisti cinesi che si muovevano dentro la regione stessa. Probabilmente questo cavolo di virus girava già da dicembre, quantomeno in Cina. Però adesso le polemiche. Dunque, Lagarde, occorre agire come nella crisi, occorre agire oppure la crisi sarà come quella del 2008, io temo anche peggio, e così la numero uno della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Inglese ha tagliato i tassi, ha varato misure straordinarie, anche se la Gran Bretagna prende ancora la cosa molto tranquilla, vedo che i controlli sono scarsissimi negli aeroporti. Pieno di video su questo, loro continuano a giocare parte del campionato, bene, bene, auguri. No, anche perché adesso vi darò anche gli ultimi dati, la Spagna ha superato i 2000, la Francia i 1700 e in effetti continuiamo con questa progressione di 9 giorni, noi ne avevamo 1700 tra domenica e lunedì, poi arrivati a 2000. La Germania 1600, esattamente la stessa progressione nostra, ahimè. E siamo arrivati a domenica 1 marzo per quello che riguarda i dati di Francia e Germania. La Spagna invece è arrivata come eravamo noi lunedì 2 marzo. Quindi quello è. Gli Stati Uniti sono a 1040, ultimi dati. Comunque, allora, Londra ha stanziato risorse extra budget, la Banca d'Inghilterra dice che sta arrivando uno shock per l'economia, il Koch Institute di Berlino dice che l'epidemia durerà mesi, forse anni, ma più dura meglio è, spiegando che questo vuol dire che l'impatto va distribuito nel tempo. La Lufthansa ha cancellato 23.000 voli ad aprile, e chiaramente non solo per l'Italia. La Brussels Airlines ha fermato tutti i voli per l'Italia, l'Ucraina ha sospeso i voli con l'Italia. Io poi vorrò capire quando loro dichiareranno che a questo punto sono loro stessi un problema, non solo l'Italia, nel senso che la sospensione dei voli è già, non ce la beccavamo a marzo o a fine febbraio, quando avevamo gli stessi casi di Francia e Germania. Questo che non mi piace dell'essere i primi della lista. Comunque, Orban mi ha proclamato lo stato di emergenza in Ungheria. I casi in Germania non risultano più alti dei 1296, perché di ieri alle 15, oggi c'è stato la Merkel ha detto che sono a rischio il 70% dei tedeschi. Il Brenner è aperto alle merci e ai frontalieri, i controlli invece con l'Austria non fanno passare, hanno sospeso. L'Austria chiuderà anche i valichi secondari in Carinzia, anche a Tarvisio, ha reintrodotto i controlli di frontiera, però l'Unione Europea dice non è arrivata ancora nessuna notifica. La Slovenia non ha chiuso la frontiera con l'Italia. Io chiedo una cosa: la Merkel ha detto che chiudere le frontiere non è adeguato, l'Unione Europea non si deve isolare ma si deve coordinare, e poi Angela Merkel ha detto parleremo con l'Italia per vedere come sostenerla, non si può dire all'Italia di non spendere su sanità, siamo pronti a rivedere il pareggio di bilancio, il patto di stabilità va usato con flessibilità. E poi ha parlato la von der Leyen, però una cosa la devo dire, qui peggio di Bruxelles sta facendo solo la UEFA. Voi direte cosa c'entra? Beh, insomma ragazzi, stiamo alle comiche finali, la UEFA peggio di Bruxelles perché la UEFA non riesce ancora a dare un'indicazione, ma come, il campionato spagnolo che si sta per fermare, ma porca miseria, sospendi sto cavolo di calcio, io sono un tifoso, ma che senso ha avere le squadre che non possono andare a giocare in Spagna, quelle invece giocano a porte aperte? Ma la UEFA dove vive, dove ha sede? In qualche sperduto villaggio, diciamo, norvegese, ancora non intaccato dal coronavirus? Chiedo. E anche l'Europa, so che non verrà nulla sto appello, ma porca miseria, quanto ci vuole perché la von der Leyen e gli altri abbiano il coraggio di dire bisogna partire con un piano straordinario di Eurobond. Adesso noi sforeremo il deficit di 25 fino a 25 miliardi, poi però dovremo pagarlo. Vuoi emettere un piano straordinario di Eurobond o devi aspettare che arrivino a 3.000, 4.000 casi anche in Germania, in Francia, così vi svegliate, visto che il Belgio comunque viaggia, l'Olanda viaggia sopra i 500, poi ognuno fa i raffronti in base agli abitanti che ha. No, chiedo, perché se vogliamo decretare la fine dell'Europa in maniera proprio plastica, poi non venite a parlarmi di vincono i partiti populisti, non populisti. Qui o arriva un messaggio chiaro dall'Europa, che in parte è arrivato sul minimo indispensabile, sì, potete aumentare il deficit. E anche il fatto che l'Austria da sola torni a, diciamo, sospenda Schengen, ma non c'è una procedura da effettuare, non ha un cavolo da dire nessuno in Europa. Guarda, non voglio parlare dei casi di morti tedeschi, noto anch'io che sono pochissimi, c'è stata una grossa polemica sul fatto che la Germania, secondo alcuni in maniera molto furbesca, avesse nascosto queste morti come picco di influenza di stagione, vediamo, perché poi sai, alla fin fine qui il problema, come sappiamo noi, non sono, ahimè, solo i morti. Il problema vero è sono tutti quelli che devi mettere in terapia intensiva in primis e poi in terapia anche subintensiva, che intasano gli ospedali e rischiano di non rendere sostenibile la sanità. Quel problema ce l'hai anche se nascondi i morti, lo dico nel caso malaugurato che la Germania avesse usato questa tecnica, perché non ti moriranno, ma comunque un problema di capienza e di occupazione delle sale da terapia intensiva ce l'hai uguale, no? E qui è inutile che facciano troppi furbi, ammesso e non concesso che gli sia venuta la tentazione di fare i furbi. Allora, veniamo all'indebitamento netto da 20 miliardi, lo facciamo dopo il meteo e la pubblicità, cercando di capire anche dove andranno questi soldi. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Chiaramente l'inno che mancava perché da un po' di giorni va, come dicevo, a tutti gli operatori sanitari, vale anche per i farmacisti e chi sta facendo un lavoro chiaramente utilissimo, perché mentre c'è chi se ne è sbattuto altamente le palle nel fine settimana e non solo, giovani, mona, vecchi, mona, cambia poco l'età anagrafica, è l'attributo che conta in questo caso, o genitori, mona uguale, mona è, sì, è, il plurale di mona è mona, e quindi ci sono migliaia di medici, infermieri, paramedici, volontari della Croce Rossa, volontari di altre associazioni, farmacisti che stanno aperti, pagati con non a sufficienza, e io dico, se poi c'è un minimo di coscienza, tutti quelli che vanno a farsi visitare sono ricoverati in questo momento e hanno evaso largamente il fisco in questi anni, se mettessero una mano sulla coscienza, perché vedi poi, poi lì non ti fermano mica e ti chiedono 7,40. Allora, ministro Catalfo, il DL, nel DL vi sarà il congedo parentale, il voucher babysitter. Come Ministero del Lavoro stiamo preparando ed elaborando delle norme che vadano a tutela di tutte le imprese, i lavoratori e le famiglie italiane, dalla previsione dell'allargamento degli ammortizzatori sociali già esistenti alla possibilità di utilizzo del fondo di integrazione salariale per le aziende che vanno anche dai 5 ai 15 dipendenti e a una cassa in deroga speciale che vada a tutelare, con uno stanziamento importante di risorse, che vada a tutelare tutti i lavoratori indipendentemente dal settore a cui appartengono su tutto il territorio nazionale. Le norme verranno correlate anche da norme per la famiglia con previsioni di congedo parentale speciale per tutte le famiglie italiane e in alternativa la possibilità di utilizzare un voucher babysitter. Si prevederanno delle norme speciali per stagionali, autonomi, anche con previsione sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in modo da tutelare tutti i settori che sono stati colpiti e che vengono colpiti dall'emergenza. E questo è quello a cui tu accennavi, Gianni Trovati. Poi il ministro Gualtieri ha detto nessuno perderà il lavoro, poi è prioritario potenziare il servizio sanitario nazionale. A proposito degli eroi, io spero che il Presidente della Repubblica, poi finita questa emergenza, conceda un'onorificenza, medaglia d'oro al valor civile, quantomeno a tutti i medici italiani. Non sto dicendo che non si fa, che anche chi sta lavorando nei supermercati in questo momento e permette a tutti noi di approfittare, però sto parlando di chi veramente, insomma, è in prima linea e rischia di ammalarsi per curare noi. Dai. Vale anche per tutti i paramedici, parainfermieri, cioè tutti quelli che lavorano nell'ospedale per garantire le pulizie, la manutenzione, ma ci mancherebbe. Allora, Gianni Trovati, un ultimo elemento invece riguarda la parte europea. Poi faremo ascoltare, questa è la misura, come abbiamo spiegato, 25 miliardi, i primi 12 in decreto venerdì, poi gli altri. La misura europea. Ora, se si vuole arrivare agli helicopter money, cioè a dare i soldi sul reddito, per esempio la misura degli eurobond, cioè di obbligazioni di carattere europeo per fare investimenti in sanità, in infrastrutture e quant'altro, mi sembra l'unica percorribile, perché il mio timore è che adesso ci danno la possibilità di fare 25 miliardi, magari 30, poi però bisognerà rientrare da sto deficit. Allora abbiamo scherzato, perché io non è che ti stia prestando dei soldi perché tu me li ridia, io ti devo dare dei soldi perché quei soldi non ci sono più e non te li ridò, non so come spiegarti. Infatti dovrebbe arrivare, speriamo che le lentezze della liturgia europea questa volta vengano superate più o meno di slancio. La von der Leyen ha detto siamo tutti italiani, l'ha detto qualche ora fa, che si passi in fretta dalla retorica ai fatti, dovrebbero arrivare interventi diretti, aiuti diretti sui fondi europei. Questo è fondamentale, ma è appunto una parte, perché come ha detto ieri l'ufficio parlamentare di bilancio, noi facciamo nuovo debito in un contesto di mercato che in questi giorni ha visto lo spread e quindi i tassi di interesse alzarsi notevolmente. Questo determina una spesa rigida molto pesante, certo, per i prossimi mesi e per i prossimi anni, perché quegli interessi te li tiri dietro fino alla scadenza del titolo. Il problema sarebbe superato da una emissione obbligazionaria con garanzia europea che sarebbe a tassi sostanzialmente negativi, perché la copertura, l'ombrello di garanzia per gli investitori sarebbe tale da essere addirittura superiore al prezzo dei bond. Sì, cioè noi stiamo facendo il nuovo debito in una condizione non certo favorevole, perché sta aumentando lo spread. Ma guardate, il punto è fondamentale, cioè qui un conto è dire vabbè, ti concediamo di fare un deficit più alto come hanno concesso la Francia in questi anni perché c'è una situazione difficile, ma poi ce lo devi ridare, come se la banca ti dicesse ti concedo di andare in rosso però poi devi rientrare da sto rosso. Altra cosa è che io ti dica no, ti do soldi che non rivoglio più indietro, perché non è che, come spiegavo, le attività commerciali, poniamo bar, ristoranti e quant'altro, non è che anche quando questo incubo sarà finito noi potremo fare 4 cene al giorno, potremo andare a berci 20 caffè al giorno e far recuperare l'attività persa. Quella in molti casi è persa e basta. Le camere dell'albergo che non ci sono più, se poi l'albergo va a occupazione del 100%, le ha perse e basta, non è che può raddoppiare le camere. Quindi servono soldi a fondo perduto, non te li devo ridare. Questo è il principio degli Eurobond. Grazie e garantite a livello europeo, non garantite dal debito italiano. Grazie a Gianni Trovati, andiamo sul GR24 e poi invece il fronte ancora europeo, mercati e un respiro in chi studia da sempre gli effetti economici degli atteggiamenti psicologici. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Vedo adesso i dati anche di Fontana, i contagiati in Lombardia sono 7.000, comunque di gran lunga la regione più contagiata, soprattutto Bergamo e Brescia, oltre che alla parte dell'Odigiano. Codogno ha avuto ieri zero nuovi contagi, almeno ci aggrappiamo le poche buone notizie, visto che oggi in diretta anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che il coronavirus è una pandemia globale, preoccupa il livello di diffusione e il livello di inazione, cioè di non azione di alcuni paesi. Poi vedremo. Allora, due cose, visto che stiamo aspettando quello che dice il governo. I governatori Zaia, Veneto, Fontana, Lombardia e Cirio, Piemonte, hanno chiesto la chiusura di tutto, cioè Fontana l'ha detto, devono restare aperte solo tutte le attività considerate essenziali per continuare la vita ordinaria, dalla catena alimentare all'energia ai rifiuti e a quelle attività imprenditoriali collegate a catene mondiali da cui non possono staccarsi, se no perdono la fornitura e poi non riaprono più. Tutto il resto va chiuso, perché appunto ci sono 1500 nuovi contagiati in Lombardia. Anche Ricciardi ha detto la richiesta della Lombardia ha senso. La pressione sul servizio, Ricciardi è il consulente del Ministero della Sanità, ha senso, la pressione sul servizio sanitario regionale lombardo è spasmodica, però vale per la Lombardia. Sentiamo allora Cirio che dice le richieste della regione Piemonte, poi sentiamo Bonometti come rappresentante invece degli industriali lombardi. Cirio. governatore del Piemonte. Se il governo deciderà che la Lombardia farà questo passo, anche il Piemonte in qualche modo dovrà essere ricompreso. Le parole di Fontana, governatore di una regione che rappresenta il 50% del PIL dell'Italia, se le sue parole sono parole che vanno nella direzione di chiudere tutto, che poi si intende ragionare anche dello stop all'attività commerciale, fare dei ragionamenti credo anche selettivi sulle attività economiche e produttive, io credo che questa riflessione debba essere accolta con grandissima attenzione, ed è il motivo per cui io l'ho sottoposta all'unità di crisi, al comitato scientifico che abbiamo istituito presso la Regione Piemonte, per avere già oggi un parere da trasmettere al governo. Allora, confermo intanto che Borrelli ha chiarito che tra i numeri di oggi 600 sono contagiati di ieri, e quindi oggi l'aumento è di 2076, però 600 appartenevano a ieri, perché ieri c'è stato un aumento di 529, non erano arrivati i dati. Dicevo, Bonometti, il microfono alla nostra Anna Marino, presidente di Confindustria Lombardia, dice che bisogna garantire la continuità aziendale. Comprendiamo perfettamente il momento difficile, perché siamo coscienti, tanto è vero che come Confindustria Lombardia Sanità abbiamo messo a disposizione, abbiamo firmato un protocollo con la sanità pubblica per mettere a disposizione i medici, infermieri, macchinari e tutti i posti letto della sanità privata. Dall'altra parte siamo convinti che chiudere l'industria lombarda vuol dire chiudere l'Italia, perdere il lavoro. Perché ci sono aziende e aziende, ci sono le aziende che sono inserite nelle filiere globalizzate, che fanno parte della filiera, e se viene a mancare un anello della filiera, o si rompe tutta la filiera o il cliente finale sostituisce l'anello con un altro fornitore. Rispetto alle richieste della Lombardia, qual è la vostra proposta? Noi siamo stati chiari, per noi è indispensabile tenere aperte le aziende, ci siamo dati disponibili a darci un codice di autoregolamentazione in linea con le prescrizioni sanitarie, e se c'è bisogno ancora più restringenti. È necessario fare un distinguo tra diversi settori? Diamo la facoltà a quelle aziende che non ritengono strategica la loro produzione in questo momento di chiudere la propria attività. Quali stime si possono fare rispetto appunto al sistema aziendale lombardo? Non si possono fare stime. Chiunque faccia le stime in questo momento dà dei numeri all'otto, perché non abbiamo gli elementi per poter fare un conto esatto, perché il danno che potrebbe nascere dalla chiusura totale delle aziende è incalcolabile, un danno d'immagine. Se chiudono oggi, certe aziende falliscono, soprattutto le piccole aziende che fanno parte anch'esse della filiera. Oltretutto adesso si sta verificando un grosso problema, che è quello dei crediti inevasi. È necessario rafforzare le misure di prevenzione. Con questo codice di autoregolamentazione le aziende si fanno carico della salute dei propri dipendenti, proprio per evitare che i contagi aumentino. Allora, intanto ringrazio così Bonometti, presidente della Confindustria Lombardia. Allora, vedremo, perché c'è un dato, la Lombardia ha avuto oggi 149 decessi in un giorno, è il dato più alto da quando è iniziata l'emergenza. 149 decessi in più in un giorno, però una notizia importante è che oggi Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità ha detto che, che l'Italia ha isolato e sequenziato il genoma del virus, ed è mettendo a confronto il virus di un paziente cinese che l'aveva, dello Spallanzani, che l'aveva preso a Wuhan, e uno di un paziente lombardo, ha confrontato tutto il genoma, è lo stesso virus, quindi non è diventato più aggressivo in Italia, almeno questo, che era un altro dei timori. Professor Legrenzi, che sto tentando faticosamente di avere in trasmissione, ma io vorrei trasformare questo appuntamento. Paolo Legrenzi insegna psicologia cognitiva alla Ca' Foscari di Venezia. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, professore, facciamo così. Io, se lei è d'accordo, anche domani la riavrei, perché vorrei iniziare a dare un piccolo vademecum sia per gli operatori economici, cioè chi sta cercando di tenere aperto e lavorare, sia per tutti i cittadini, perché notiamo anche noi una schizofrenia, in alcuni casi diciamo forse anche fisiologica, tra un eccesso di allarme e un dire vabbè, ma poi alla fin fine non posso mica cambiare la mia vita. Allora, ci dica la prima regola, poi arriveremo domani alla parte economica. Come si fa ad avere un atteggiamento molto attento e quindi di estremo rispetto delle norme senza arrivare al panico? Bisognerebbe, come prima, la prima premessa è che quando lei innesca il circuito delle paure, prima di arrivare al panico, che è una paura condivisa, c'è una paura che è diciamo, attribuibile a un pericolo, c'è un'ansia che è uno stato d'animo di paura in cui non si identifica bene un pericolo, e infine c'è il panico con la paura diffusa. La prima regola importante è che molto a uno stadio avanzato come adesso di paura diffusa è molto difficile vincere le paure con i ragionamenti. Teoricamente sarebbe facile, perché basterebbe confrontare il pericolo oggettivo con le misure fatte per prevenire, quello che ha detto prima il dottor Bonometti molto bene sull'industria Lombardia. Però in realtà lei non può confrontare entità molto diverse. Pericoli a cui noi siamo abituati, che pensiamo talvolta erroneamente di controllare e che in realtà sono di entità molto maggiore, se li prende pericoli di andare per le strade, pericoli di andare sul lavoro, cioè le morti sul lavoro, le morti sulle strade. Però lì è un pericolo, una paura. È un'altra categoria, perché esatto. Lei pensa di controllarlo, lei si certo. Mette in macchina in questo momento. Tutti quelli che lavorano e che sono autorizzati a muoversi perché vanno a casa dal luogo di lavoro, vanno in macchina, quella è una cosa totalmente diversa, non ha nessun paura, un fenomeno noto, controllato, volontario, capisce? L'opposto di quando un'epidemia ci ha colpito, sto parlando dentro una chiesa della salute, perché abito a Venezia nel centro storico. Ecco, rispetto all'epidemia del passato e anche questa qui, non si sa come è arrivata bene, non si sa chi colpisce, non si sa quanto colpisce, ci sono i pazienti asintomatici per cui non ci sono, c'è un ritardo tra quando lei è colpito e quando manifesta i sintomi anche di 15 giorni, quindi è la cosa più se lei doveva inventare una cosa terrificante, inventava l'epidemia da coronavirus, è il massimo terrificante, quindi lei non può con i ragionamenti fare confronti tra... ma infatti c'è molto più grande . Allora domani torniamo su questo perché lei ci ha fatto capire una prima cosa, un conto è la paura che io riesco a quantificare, che mi fa anche bene perché ho paura di essere investito, di fare un incidente, sto attento e penso di poter comunque gestire, deve avere delle chance. Altra cosa è l'ignoto, c'è la differenza che c'è in economia tra rischio che uno può calcolare e incertezza che non sa esattamente cosa capiti. E qui c'è una scala che non posso far vedere in cui si mostra molto bene, ne torneremo domani, la differenza tra l'indignazione pubblica e il pericolo oggettivo. Per esempio gli attacchi terroristici hanno una grossa indignazione pubblica, ma ognuno di noi poi li ritiene molto molto bassi come pericolo oggettivo. Le malattie cardiache non hanno una grossa indignazione pubblica, ma uno ha paura e fa delle cose per evitare. Qui siamo verso l'ignoto, quindi la prima categoria è non usare il termine paura come si usa di solito, ma usare il termine angoscia o nel caso che lei stava ricordando il termine panico. Domani le avremo ospite per capire poi come cambia l'atteggiamento, che uno sia un operatore economico o nella sua vita privata. Grazie intanto a Paolo Legrenzi, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni l'augurio comunque di una buona serata, il più possibile in casa.